I nostri iscritti sono aumentati nell'anno 2019 di 920 unità, quindi 920 persone che hanno deciso di appoggiare l'impegno che l'AMPI da 75 anni a questa parte ha dimostrato sempre. Quindi è stato per noi non un sensibile aumento, è stato un aumento consistente, perché in questi ultimi anni ovviamente non era stato così evidente come è stato il 2019, quindi abbiamo avuto un recupero particolare proprio dal 2016, quando insomma il referendum aveva messo in discussione anche qualche tessera, quindi c'è stato un ampio recupero del numero delle tessere che avevamo perso, anche proprio nelle stesse persone che hanno ritenuto invece poi insomma riscriversi all'AMPI, riaderire insomma all'AMPI, e tantissime persone che hanno deciso di prendere la tessera per la prima volta, quindi questo è stato un segnale estremamente insomma lusinghiero sul 2019, e devo dire che si sta ripetendo anche in questi primi due mesi del 2020, perché le due giornate di tesseramento che abbiamo fatto fuori, insomma, sulle piazze del nostro territorio, hanno dato segnali altrettanto importanti, insomma, e particolari. Avete un'idea di più o meno a che età hanno i nuovi iscritti? Sì, è un'analisi che abbiamo fatto con molta attenzione, proprio perché dobbiamo capire anche quali sono le azioni che nel tempo, insomma, negli anni futuri dovremo intraprendere, proprio per essere sempre molto in linea e molto vicini, insomma, no? Anche alle aspettative di chi decide di prendere una tessera. Quindi sono persone mature, ecco, c'è sì una fascia di persone anche abbastanza giovani, ma direi che la prevalenza è data dalle persone che sono gli ultra trentenni, insomma, ecco, con ancora conferme di persone che ne hanno anche 50-60, ma nella stragrande maggioranza sono persone molto più giovani, quindi è proprio un rivolgersi all'AMPI in persone che in piena maturità decidono insomma di aderire. E a questo punto le chiedo quali sono le ragioni per cui l'AMPI genera così fiducia. Ma è una domanda molto difficile. Io credo che la coerenza che in questi 75 anni le persone dell'AMPI hanno dimostrato sia la piena fiducia che le persone oggi si ritrovano, e quindi credo proprio che dipenda dalla coerenza e dalla fermezza con la quale in questi anni abbiamo difeso intanto la memoria di coloro che hanno combattuto per la nostra libertà e la nostra democrazia, ma soprattutto perché in questi 75 anni abbiamo difeso sempre con tanta energia la nostra Costituzione, perché noi partiamo da lì, è la Costituzione il legame più forte che unisce tutte le anime dell'AMPI. Da tante provenienze sono gli iscritti, quindi l'AMPI ha un compito difficile, quello di tenere uniti sotto l'ombrello, diciamo, della Costituzione tutti coloro che si riconoscono nei valori che lì sono espressi. Una casa comune, insomma, che è sempre più difficile avere in politica, diciamo. Ecco. Esattamente. Possiamo dire quindi che c'è comunque nel nostro paese, nella nostra città, comunque un grande bisogno di antifascismo? Credo proprio di sì, anche perché i segnali che purtroppo arrivano sono tanti, sono nel quotidiano, abbiamo segnalazioni di fenomeni di fascismo, non il fascismo di allora, ma il fascismo di oggi, e comunque sia la mia preoccupazione è proprio questa, quella di non sottovalutare anche questi segnali, anche queste manifestazioni, che oggi sono così, oggi sono già troppo tollerate, e credo che ci sia davvero bisogno di una consapevolezza più forte, più significativa di ciò che accade, perché forse cominciò così anche allora. Quindi io credo che dobbiamo avere tanta, ma tanta attenzione, e non dobbiamo assolutamente sdoganare valori per i quali il Novecento ha avuto come segno indelebile.